Lavoro non si può vendere come merce, perché prima di andare sul mercato non c'è. Lavoro non si può vendere come merce, perché prima di andare sul mercato non c'è. Scambio diretto tra denaro e lavoro abolirebbe la produzione nel capitale. Scambio diretto tra denaro e lavoro abolirebbe la produzione nel capitale. Sul mercato arriva il lavoratore, non il lavoro. Sul mercato arriva il lavoratore e non il lavoro. Prezzo del lavoro è il mantenimento dell'operaio. Na na na. Prezzo del lavoro è il mantenimento dell'operaio. Il salario nasconde la divisione della giornata lavorativa. Il salario nasconde la divisione della giornata lavorativa.